gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte a tutti, siete qui con Mendo. Questa è la seconda stagione delle buonanotte di allineamenti. Dopo un breve iato per quest'estate, spero l'abbiate passata tutti bene. La mia è stata molto divertente. Ho fatto un giro abbastanza strano con una mia amica. Abbiamo deciso, come tutte le cose che faccio abbastanza a caso, di non farci nessun piano. Lei voleva andare a Sarajevo e io ho detto va bene, però tutto il resto, tutto quello che deve succedere, deve essere totalmente casuale. Non voglio prendere nessun genere di decisioni, non so dove stiamo andando, non so come stiamo andando. Dove vediamo che ci piace, andiamo. E allora siamo partiti e siamo stati in Croazia. Bellissima la Croazia, un mare incredibile. Siamo arrivati a Sarajevo, in Bosnia. Siamo stati fermati alla frontiera del Montenegro, dove non ci hanno fatto entrare in Montenegro. E poi ci hanno fatti entrare. Dal Montenegro poi siamo stati in Albania, dove abbiamo fatto un incredibile incidente perché una capra ci ha attraversato la strada in autostrada e siamo finiti nel culo della macchina davanti. 12 giorni, 1900 km andata e 1200 km di ritorno con una macchina scassata. È stata una bella estate, un po' malinconica. O meglio, questo è quello che mi ha detto lei. Un giorno mi ha guardato e mi ha detto: in questa vacanza non mi stai dando affetto. Ed è un po' vero, ultimamente sono chiuso. Sapete, quei periodi nella vita dove tutto ti entusiasma, sei una spugna, tutto assorbi, è tutto fantastico, il mare, il sole, mangiare, dormire, andare in giro a vedere cose nuove. Però assorbi tutto e non riesci a dare niente verso l'esterno. Perché stai assorbendo, stai solo prendendo e incanalando, e tutto quello che puoi dare agli altri è niente. Puoi esserci, puoi essere lì, però non riesci a buttar fuori. È un po' un blocco, o meglio, io vivo la mia vita abbastanza così, a blocchi. E non so quando mi passerà, non so se arriverà quel momento in cui passerà. Credo di sì, come ogni cosa. Però questa cosa mi ha fatto pensare a uno dei miei poeti preferiti. Si chiama Paul Éluard. E volevo regalarvi un pezzo da un suo libro che si chiama Poesia ininterrotta. E fa così. Perché un sol bacio la leghi e la circondi il piacere. Bianca azzurra, bianca estate. E lei si regola d'oro e il suo seno onduli molle, muovendo la carne al calore. Per un'infinita carezza, perché sia come una piana, nuda, visibile ovunque, perché sia come una pioggia, senza nube per miracolo, come pioggia tra due fuochi, come pianto tra due risa, e sia neve benedetta, sotto calda ala di nido, quando va più svelto il sangue nelle vene al nuovo vento, perché schiuse le sue palpebre più profonda luce vedano, profumo totale a sua immagine e la bocca sua si intenda con silenzio intellegibile. Perché posi le sue palme su ogni capo che si desta e le linee delle mani nelle altrui mani continuino, distante dove passi il tempo. Più forte sarà il mio delirio. Dall'oceano alla sorgente e dal monte alla pianura va il fantasma della vita, l'ombra sordida di morte, ma fra noi nasce un'alba di carne ardente. Ben precisa, che riordina la terra, è tranquillo il nostro passo, la natura ci saluta. I colori incarna il giorno, ed il fuoco i nostri occhi, e la nostra unione il mare. Tutti i vivi ci somigliano, tutti i vivi che noi amiamo. Gli altri sono solo immaginari, falsi, cerchiati dal nulla, ma noi dobbiamo combatterli. Sono vivi a pugnalate, parlano come un legno scricchiola, hanno labbra tremanti di gioia, all'eco di campane di piombo, al silenzio di un oro nero. Un cuore solo non è un cuore. Un sol cuore tutti i cuori, e di corpi ogni stella in un cielo pieno di stelle. Entro la nobile traccia della luce degli sguardi, peso nostra luce in terra, patina della voluttà. A cantare plaghe umane, per te la vivente che amo, e per tutti quelli che amiamo, che hanno voglia di soltanto di amarsi. Saprò pure sbarrare la strada al fiato dei sogni costretti. Saprò pure ritrovarmi. Prenderemo possesso del mondo. O riso vegetale che schiude una radura di gole incanto lento interminabile. Mani ove il sangue è sparito, dove è volontaria innocenza. Gioia colta affettuosa legna morta, calori dell'inferno, fibre asciutte. Fresco d'estate su dei fiori nuovi, amor costante molteplice e nudo. Nulla da odiare né da perdonare. Nessun destino illustra a noi le tempie. Nella tempesta noi deboli siamo, l'ago che è più sensibile. Noi la ragione della tempesta o immagine, e contatto perfetto. Nostro luogo è lo spazio, nostro orizzonte è il tempo. Sassi su una via battuta, erba come un ricordo incerto. Cielo coperto, notte che presto discende. Qualche vetrina inaugura i suoi lumi. Porte forate, finestre aperte, sopra gente sbarrata. Un piccolo bar venuto e rivenduto, apoteosi di cifre, di noie e di mani sporche. Un disastro profondo, dove tutto è contatto anche la tristezza. Anche la derisione, anche la vergogna, è inutile il lamento, è idiota il riso. Il deserto di macchie s'allarga, più che sopra un sudario. Gli occhi sono spariti, gli uccelli volano bassi, non c'è più rumore di passi. Il silenzio è come un fango per i progetti senza domani. E ecco un bambino grida nella gabbia della sua noia. Un bambino rimasto alla cenere, nulla di vivo si muore. Grazie ancora per aver passato questi 10 minuti con me. Vi auguro a tutti quanti una buona notte. E volevo chiudere con una canzone con cui ho passato un sacco di notti quest'estate. E si chiama Ambra era nuda di Postino. Grazie mille ancora a tutti. Buonanotte. Ambra era nuda, ero vestito, il riflesso negli occhi di chi ha capito che alla fine vince sempre chi si spoglia per primo. Il letto sfatto, il gatto sul comodino, in terra l'ultima bottiglia di vino. È solo un ricordo in mezzo a tutto questo casino. E non mi dire più cosa mi dovrò far piacere o non guardare, e di non fare tutte quelle cose che io avevo voglia di fare. E non mi dire più di massaggiarti il cuore con le parole, che se le avevo le ho finite tutte prima a pranzo con tua madre. Quest'estate sono solo però la libertà di costruire una spiaggia in mezzo al centro città, di fare il bagno nei tombini col costume in chiesa. Ma poi tutto svanirà quando la vodka è scesa. E tu non ci sei più qui con me, però vabbè, qualcuno mi terrà compagnia, saremo io e la mia malinconia. Non ci sei più qui con me, però vabbè, qualcuno mi terrà compagnia, saremo io e la mia malinconia. Ambra vestita, io sono nudo, le valigie in mano di chi ha detto chiudo, che alla fine perde sempre chi si spoglia dopo. Spengo la sveglia, resto a letto col gatto a pensare a quello che potevo aver fatto. Son sempre stato più bravo con le parole che in amore. E non mi direi più cosa mi dovrò far piacere o non guardare, e di non fare tutte quelle cose che io avevo voglia di fare. E non mi direi più di massaggiarti il cuore con le parole, che